I colori dell'anima, benvenuti, benvenuti in diretta su Radio Alma. Oggi lunedì 17 dicembre 2012, sono le 21.02 e siamo qui in diretta sempre dallo studio 1 di Radio Alma a Bruxelles e ci state ascoltando sulle nostre frequenze 101.9 FM oppure per tutti gli altri che non sono a Bruxelles in diretta streaming sul sito www.radioalma.eu. Quindi se avete degli amici che ancora non ci ascoltano, diffondete la voce, diffondete il verbo, date tutte le nostre coordinate. E allora, come avete visto dalla nostra introduzione musicale, il tema di oggi è chiaramente, forzatamente, natalizio. E il tema per cui vi invitiamo a scriverci, a interagire con noi è: sei per la stella sul presepe o per le palle sopra l'albero? E questa... Abbiamo Babbo Natale, attenzione! Natale! Bene, bene, Babbo Natale, ti presentiamo dopo, dai, incominciamo bene la puntata. Incontenibile. Vai, Giampaolo, incominciamo a presentare un po', oltre al tema della puntata, un po' le frequenze, i numeri di telefono, perché vogliamo chiamate, messaggini, vai Giampaolo. Allora, noi vogliamo sapere, come stavo dicendo, da voi, che cosa preferite, se la stella sul presepe o le palle sopra l'albero. E chiaramente, come chi ci sta ascoltando si chiederà, ma come possiamo farvi sapere? Ebbè, è semplicissimo, innanzitutto potete telefonare, come sempre, al numero di telefono 02-345-1168 se chiamate da Bruxelles, mentre invece per coloro che chiamano dall'estero, per coloro che chiamano dall'Italia, bisogna aggiungere il prefisso internazionale. Quindi il numero sarà 0032-2345-2656. Quindi ripetiamo il numero 0032 2345 2656. Oppure, e per chi volesse scrivermi un messaggio sul mio telefono personale, tanto ormai lo sa tutto il mondo, potete inviare un SMS. Se siete tirchi e non avete soldi e non li volete spendere questi soldi, che mandate devono fare un messaggio. I regali di Natale, è vero, quindi non siete tirchi, siete delle brave persone col senso in testa, come dice mia nonna. Allora, potete inviare un messaggio con lo 0032 471 40 78 04 0032 471 40 78 04. Ecco, ricordato questo, ricordiamo anche che, come i nostri ascoltatori più affezionati fanno ogni trasmissione e anche stasera comincio a vedere, potete scriverci e interagire con noi sulla nostra pagina Facebook. E infatti noi vogliamo che voi postasse le foto del vostro albero, del vostro presepe, perché vogliamo capire se siete più per la stella sul presepe o per le palle appese sull'albero. Quindi fate una fotografia col vostro smartphone o iPhone, ecco, e postatela su Facebook. Fotografate le palle del vostro albero, o la stella cometa sopra il presepe. Dai, mentre ci avviciniamo a questi giorni di Natale, qua a Bruxelles è tutto un fermento. Io qua in studio sono stasera affollatissimo di ospiti. Sì, ce ne sono. Siamo tantissimi, veramente tantissimi. Infatti lanciamo Babbo Natale. Beh, ormai gli metteremo un tappo in bocca, non se non la finisce. Gli mettiamo una palla in bocca, fermatelo. Lo fermiamo. E intanto lanciamo il primo disco. Giampaolo, qual è? Allora, adesso ascoltiamo Jovanotti, Chissà se stai dormendo. E rieccoci qua in diretta su I colori dell'anima. Questa è Radio Alma 101.9 FM, oppure in diretta streaming www.radioalma.eu. E il tema della serata è: stella sul presepe o palle sopra l'albero? Aspettiamo ansiosi tutte le vostre foto, i vostri commenti, i vostri messaggi che tempesteranno il telefono di Angelo. E noi nel frattempo cominciamo a goderci i magnifici ospiti che abbiamo qua stasera, perché sono circondato da tante persone stasera. Avevamo promesso ospiti importanti. E quindi, visto che ci stiamo avvicinando al clima natalizio, abbiamo pensato che tutti in questo periodo amano cantare, sotto Natale viene un po' quella voglia di ascoltare tutte le musiche natalizie, tutte le canzoncine di Natale, che poi sono sempre le stesse, però fa sempre piacere ascoltarle. E quindi, quale migliore occasione di questa per ospitare qui a Radio Alma alcuni membri della corale Saint Boniface, che io ho qua davanti. Benvenuti ragazzi! Ciao! Buonasera. E allora io no, non ve li voglio svelare tutti insieme, li voglio svelare poco alla volta. E allora io comincerei direttamente da Michelangelo. Buonasera a tutti. Ciao Michelangelo. Allora, innanzitutto tu fai parte di una corale, quindi presentati col tuo nome, ma soprattutto con la tua voce. Cosa fai nella corale? Faccio il baritono e un po' di tenori. Cioè, un po' di due, aveva detto un po' di soprano. Beh, forse se qualcuno t'acchiappa, un giorno un baritono, un giorno un basso, un giorno un soprano, un giorno un tenore. Beh, ecco che interviene, si inserisce sulla fascia il nostro carissimo Leandro. Babbo Natale! Buon Natale! Bene, bene, benissimo. Buttatelo fuori, buttatelo fuori, chiudetelo nel bagno e non lo fate uscire mai più. Terribile. Lui è uno ma fa per cento, guardate, vi posso davvero assicurare. E niente ragazzi, io allora che dire, mentre aspettiamo che tutti i nostri ascoltatori cominciano a scriverci, a postare le loro foto, a dirci un po' tutte le loro cose del Natale, io comincio a chiedere a voi: ma voi l'avete fatto l'albero di Natale, il presepe, cosa avete fatto in preparazione a questo Natale? Ah, io sì, ho fatto l'albero di Natale, però l'ho fatto nell'ufficio, va bene lo stesso? Sì, sì, sì, sì, sì, penso di sì. Va penso bene. E con tante palle, abbiamo proprio messo un sacco di palle sull'albero, abbiamo messo le stelle filanti, cose luminose, tante cose. E invece Michelangelo, tu? Noi abbiamo fatto l'albero col presepe. On plane, proprio. Sì, sempre, ogni anno lo facciamo, dunque l'albero con le palle, sempre con la stella sopra l'albero. Ecco, non ci facciamo mancare niente. No, la stella sul presepe non la mettiamo, la mettiamo sull'albero. Senti, ma è una tradizione, lo fate tutti gli anni o quest'anno avete voluto così fare qualcosa? Ogni anno lo facciamo perché per i bambini passano il tempo a farlo, passiamo un pomeriggio a fare tutto. È una cosa bella perché tutti si mettono là, chi prende le palle, chi prende l'albero che lo montano, perché è un albero... quelli biologici, non so, quelli... È l'albero dell'IKEA, che lo prendi smontato e te lo monti a casa. Ma abbiamo qua, infatti, in regia con me, voi dovete sapere, chi sta su Facebook ha visto che a fianco a me c'è una graziosa signorina dal nome Leana. Finalmente una bella presenza in regia. Finalmente una bella presenza, infatti. E infatti, chiediamo a Leana, avvicinati al microfono, chiediamo a Leana, ti diverti a fare l'albero con le palle con papà, sì o no? Sì, tanto. Spiegaci un po', perché ti diverti a fare questo albero con le palle? Perché ci sono i colori negli ordini e dobbiamo mettere il colore che corrisponde sull'albero. Mamma mia, bambina. Oddio, nordica, col colore, oddio, palla con palla, mamma mia, incredibile, boh, Michelangelo, proprio addestramento proprio da campo di concentramento. Ma è una cosa complicatissima, no, io già mi sono confuso. No, perché i rami hanno un colore, dunque inizi dal colore nero sotto, poi colore rosso, blu, dunque okay. Ogni piano c'è il suo colore, il suo rame, dunque... Perciò ho capito. Leana, ma tu qual è il momento che ti piace di più della costruzione dell'albero? Cioè proprio quello della costruzione oppure quando lo devi addobbare, quindi con le palle, i fili, le cose, le luci? Ale. Quando lo costruiamo. Ah, e perché? Beh, perché si deve mettere i rami nelle fessure dell'albero, sì. Ok, quindi a te mettere le luci, le palle non ti piace? Non tanto. E chi le mette? Chi le mette, papà? E Matteo, mio fratello, e Lorena, mia sorella, e mamma pure. Ah, ok, confermi Michelangelo? Sì, sì, ma lo sai perché gli piace tanto a costruire l'albero? Perché ogni anno si rende conto che arriva a mettere i rami più alti. È vero, Leana? Sì. E sai quanto sei alta adesso? Quasi 1,40 m. Vai, no, come Giampaolo, vai, bravissimo. Hai superato Giampaolo, vai. Ma noi lo volevamo sapere in rami, quanto eri alta. Quanti rami sei? No, non è... Quasi so mettere il più alto. Ah, e quanti sono? Cioè, non lo sai, una 10-20, vai, diciamo 50 rami, vai, 50 rami. E io mi fermo a 12, eh. Bene, benissimo. Dopo questa voce angelica, è quasi un peccato ritornare in studio con questi vocioni da uomo. Con questi babbi natali che si introducono da tutte le parti. Senti, e invece vediamo un po' il nostro caro amico Babbo Natale. Quindi hai messo questo albero in ufficio. Perché in ufficio? È perché l'ha comprato il capo ufficio. Cioè, praticamente l'ha preso un abete vero, di un metro e mezzo, due metri e mezzo, praticamente una cosa enorme che stava l'ufficio. Una sequoia millenaria, direttamente da Yellowstone. Esatto. Cioè, perché lavora nella forestale il tuo... è sicuro. E quindi niente, praticamente l'abbiamo riempito di palle, di cose, abbiamo messo i cappelli però non abbiamo devo confessare una cosa, che non abbiamo messo la stella sopra l'albero. Non abbiamo messo la stella sopra l'albero, abbiamo messo il cappello del Babbo Natale sopra l'albero. Dai, proprio americani non si fa. Senti Leandro, ma come avete fatto a montare quest'albero, ad addobbare quest'albero di Natale gigantesco? Cioè, ci avete fatto un ponteggio come quelli dei muratori? Arrampicandosi sulle sedie, tenendosi l'uno con l'altro, perché bellissimo, un circo praticamente. Esatto. Meraviglioso. E niente, quindi a casa non hai messo niente? No, a casa le mie coinquiline non avevamo l'abete, però hanno messo, anzi le saluto a tutti quelli dello Chateau Chanterelle, se mi sentono. Ciao ragazzi. Chateau Chanterelle sembra quasi una casa chiusa. No, è una casa chiusa, è una casa aperta, voglio dire. Scusa, io adesso mi sono incuriosito. Cos'è questo Chateau Chanterelle? Lo Chateau Chanterelle è una grande casa dove stiamo in sei e ne combiniamo di tutti i colori. Hai visto? Qua non è la radio adatta. Quella va in onda da mezzanotte in poi. Infatti, no, basta. Però hanno addobbato, insomma, cioè avevamo una pianta, ci hanno messo un sacco di luci, hanno fatto una cosa molto bella, veramente. Benissimo. Beh, allora, che dire, io vorrei un attimo salutare gli amici di Facebook, perché vorrei salutare Maria Domenica Alfieri, vorrei salutare Carmine Fortino, poi ancora Antonella, poi mi arrivano dei messaggi che leggeremo tra poco, quindi vi salutiamo tutti e cominciamo a introdurre un altro brano, che è il brano di una mia band che voi conoscete benissimo, perché vi devo comunicare che a maggio uscirà il mio nuovo disco e questa è Chissà se un giorno, suonata dalla Angelo Gregorio Band e Giuseppe Mautone alla batteria, Oliver Fanuel al basso, Christian Finzel alla chitarra e alla chitarra acustica e al sassofono e alla voce e alle composizioni ci sono io. Grazie mille, Chissà se un giorno. Rieccoci qua in diretta con i colori dell'anima su Radio Alma. Aspettiamo ancora le vostre telefonate, ragazzi. Sì, ricordiamo poi i numeri, perché sicuramente la gente c'ha un po' di arteriosclerosi, soprattutto in questo momento di Natale. Che mangia, se beve, se imbriacane. Tra l'altro devo dire che è una cosa abbastanza diffusa tra i nostri ascoltatori. Quindi passiamo immediatamente a ricordare il numero di telefono, che è 02 345 26 56. Ripeto, aggiungendo il prefisso per chi ci chiama dall'Italia, è 0032 2345 26 56. Oppure scriveteci, come hanno già cominciato a fare in tanti, sulla nostra pagina Facebook Angelo e Carla On Air. Hanno postato le foto. C'è produzione. Oppure scrivete uno SMS sul mio telefono personale, tanto ormai lo sanno tutti: 0032 471 40 78 04, 0032 471 40 78 04. E chiamate in studio, chiamate, che abbiamo ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ospiti, vai! E diteci tutto quello che vi pare, mandate le fotografie, non lo so, telefonate, chiamate, scrivete, disegnate, fate un po' quello che volete. Tutto fuorché chiederci soldi. Esatto, quello proprio non lasciate stare, perché proprio non c'è speranza, Però scriveteci veramente, mandateci di tutto, fateci sapere quello che vi piace, ma soprattutto diteci tutti quanti se preferite la stella sul presepe o le palle sull'albero. Le palle appese sull'albero. Appese. Bene, allora, in questo studio stiamo diventando sempre di più. Io vi ho già fatto conoscere qualcuno. Infatti ci puzzano poco. Ragazzo, aprimo, aprimo, aprimo, aprimo, aprimo, aprite, aprimus. qua siamo diventati veramente in tanti. Allora, dopo avervi fatto ascoltare la voce di Michelangelo e di Leandro Babbo Natale, io adesso passerei a presentare altri ospiti. Altri ospiti. E adesso, chi presentiamo? Facciamo un po' la ruota così che gira della fortuna. Eccola là. Chi sei tu? Ciao, ciao a tutti, sono Rossella. Ciao, ciao, Rossella, sono benvenuta. La voce del tuo gioco preferito. Eh sì, sono proprio io, sono Rossella e sono una sopranella. Una sopranella. Ecco, perché ha detto sopranella, Giampaolo? E perché? Perché? Questo lo chiediamo a Rossella. Allora, perché io faccio parte della Corale di San Bonifacio, che è una bellissima corale che nasce quasi un anno fa, e in questo studio ci sono alcuni dei membri che partecipano alla corale, quindi Rossella, la sopranella che mangia la mortadella. E là, ci vai a Rossella, la sopranella che mangia la mortadella. Vai, vai, passiamo a un altro pezzo di maiale, dai, quello a fianco, allora, vai, dopo la mortadella. E in giù, giù in fondo, chi c'è? Gabriele. Eccolo, ciao, ciao Gabriele. Dal tono della voce mi sembra, che ne so, uno Sting, una cosa mosce. Vai Gabriele, più vita. Scusa, ma... Ale, dammi carica. Allora Gabriele, tu cosa fai in questa corale? Io volevo cantare. Però? Poi dopo sono stato obbligato, forzato a suonare il pianoforte. Frustato anche. Frustato proprio, capito? Sì. Ho cercato di nascondere il fatto che suonavo il pianoforte, poi a un certo punto è uscita fuori, non so come, un'informazione, girano le informazioni. Voci così, e alla fine niente. Quindi no, con molto piacere suono il pianoforte. E lui dovete sapere che è timidissimo, però no, Gabriele è il nostro grande pianista, grande pianista della corale San Bonifacio. Scusate, gli mettete una palla a Babbo Natale in bocca così non ride più. Tagliategli la spina, staccate, ma fate qualche cosa. Ma insomma, dopo Gabriele, invece, dulcis in fundo abbiamo... E dopo Gabriele c'è Tiziana, la siciliana. Una delle tante. In effetti i siciliani in questo coro siamo forse, no, non la maggior parte, ma ci difendiamo bene. C'è una nutrita presenza, diciamo. Però che si nutre coro... Che si muda, cioè, nel coro c'è, cioè, praticamente rappresentata tutta Italia, cioè, c'è gente che viene da tutte le parti. Per esempio abbiamo Michelangelo, tu da dove vieni? Che regione rappresenti? Campania. Eccolo là. Gabriele. Lazio, diciamo Roma. Rossella. Sicilia. Eccola che ritorna, eccola là. E invece abbiamo Leana, tu da dove vieni? Qual è la tua regione? Campagna. Eccola là, una. Senti, ma i nostri amici ascoltatori sicuramente sono un po' spiazzati, perché il tema della serata è: preferisci la stella come da sul presepe o le palle appese sull'albero? Però parliamo di questa corale. Perché parliamo di questa corale? Perché sotto alle palle appese, cioè sotto l'albero, ci va qualche cosa. Ci vanno, quindi, i regali di Natale. Quindi ci vanno questi regali di italiano. Quindi spieghiamo un po' cosa va sotto questo albero e cosa noi mettiamo sotto l'albero e cosa gli altri che ci stanno ascoltando mettono sotto gli alberi. Quindi postate, non ho visto poche foto, postate la vostra foto dell'albero vogliamo che avete sapere, a casa, vogliamo sapere, e commentate. E allora, invece io giro la domanda, la fatidica domanda, ai nostri ospiti qua che sono arrivati, quindi Rossella, Gabriele, Tiziana, diteci se voi avete fatto l'albero, se avete fatto il presepe, cosa vi piace di più, se avete fatto entrambi, quante palle avete messo sopra l'albero, quante stelle sul presepe, diteci le vostre, le loro, le proprie, quello che volete. Rossella. Beh, allora, a me piace di più fare l'albero di Natale, perché l'ho sempre fatto con mio fratello, io ho studiato fuori, quindi quando tornavo a casa per Natale era il momento per fare l'albero di Natale e dovevo, diciamo, fare un po' di pressione su di lui, perché poi facevamo quest'albero di Natale, poi io partivo e lui lo smontava, due metri di albero di Natale. Che bello. Sì, ci divertivamo insieme a mettere le palline su di tutti i colori, che sono sempre le stesse da 30 anni. Addirittura. Sì. Ma pensa tu, st'albero, cioè, sono bianco e nero queste palle, come? No, sono tutte colorate, cioè, sono addirittura le sapete i gadget che c'erano nelle merendine, nelle bruscine del mulino bianco. Aspetta, no, non me le ricordo. Sono dei pupazzetti storici. Aspetta, quelli... fermi. Italia, italiani, italiani, cibernauti. Se voi avete in casa uno di questi gadget, vi prego, fotografatelo e mettetelo su Facebook. Vi prego, vogliamo vedere. Siamo nostalgici. Sì. Dai, dai. E quindi, ma, allora stai spiegando, Rossella, fate quest'albero di Natale gigantesco di 2 metri. Ma quanto è alto tuo fratello, scusa? Mio fratello è 1,90. Aspita, vabbè, io mi mettevo sulla scala, non c'era problema. Io sono un euro, my god, 1,55. No, quindi... quello non te lo diamo. Abbiamo detto che soldi non ne diamo. Niente, è stato inutile che ci provi. Jesus. Gabriele, albero o presente? Guarda, io ho fatto l'albero anche io, però no, in realtà non l'ho fatto, l'ho comprato al Carrefour al costo di un euro, si può dire Carrefour, sì, al costo di un euro. Guarda, Carrefour, sì, è perché siamo italiani, dai. Diciamo, al costo di 1,85 euro. Ale, anche lo sconto. Sì, sì, no, è stato... E poi è bellissimo perché è un alberello USB, cioè lo attacchi al computer e fa le luci. Oh mio Dio. Siccome io lavoro su una impresa informatica, non potevo non comprare una cosa informatica, anche io informatizzato. No, dai, che no. È un alberello però di 10 centimetri invece di essere 2 metri come... Ma come sì, i piccoli saranno i grandi e i grandi saranno piccoli. Che infatti, non ti preoccupare. Bellissimo, ed bellissimo. È piaciuto. Guarda, tanti me lo richiedono, regalamelo anche a me, lo voglio anch'io. Bellissimo. Bell'albero high tech. C'è Rossella, bravo, che vuole dire una cosa. Sì, Rossella, vorrei magari chiederti se me ne regali una a me. Mio fratello sarebbe molto contento. Sì, perché loro stanno ancora con l'albero di 30 anni fa. Cioè, amici di Facebook, c'hanno le palline a tubo catodico. Cioè. Vi diamo l'indirizzo di Rossella in Sicilia. Gli mandate un albero. Spedite un albero high tech per il fratello di Rossella. Grazie. Tanto più brutto dell'albero di Natale che sta qui a Bruxelles. Eccola, è arrivato. Beh, allora io vorrei dare adito a questi, ai nostri radioascoltatori. C'è Elena che fa un salutone a tutti voi da Lorena e Matteo. Ciao Elena, ciao Elena. E c'è Antonella che dice: Giampaolo, hai visto il fratello di Rossella come bravo? È vero. È anche alto il fratello di Rossella, ragazzi. È vero, Giampaolo ha la stessa statura di Leana, anzi Leana è più alta, quindi dovete capire. Sì, non ci arrivo al 50° round come allora, Leana. Io direi che è proprio l'ora di invitare tutti gli ascoltatori a inviare una buona scala a casa di Giampaolo. E Tiziana, tu invece? Io, a me piace fare l'albero come Rossella, perché ci vuole un po' di tempo, perché pure io salgo sulla scala per farlo, per mettere le luci, le palline. Io passo tutto il pomeriggio, faccio l'albero, metto tutti gli addobbi in tutta la casa, in tutta la stanza. Ma tutto lei fa? Sì, praticamente sì, aspettano, per esempio adesso aspettano me, aspettano che io scenda per fare l'albero, che torni a Catania, che torni in Sicilia, perché senza di me l'albero non si può fare. Eccola là. Quindi però mi pare di capire che qua l'albero va un po' per la maggiore, il presepe è un po' in minoranza. Sarà perché magari è un po' più complicato da fare, l'albero è un po' più semplice. Ma, no? Sì, poi... anche perché poi penso che molti di noi partono tra qualche giorno, è vero? Quindi magari ti fai il presepe, poi parti, magari lo fai a casa, no? Sì, io penso che da un lato anche il presepe è una cosa importantissima, anzi a volte penso che si è persa un po' la tradizione e il piacere di fare il presepe, perché certo. L'origine è quella, cioè anche il motivo per cui si festeggia il Natale è quello di mettere Gesù nella culla, poi la notte di Natale, e se non si fa il presepe... Gesù non ha il posto dove andare, dove essere benissimo. Però diciamo che Gesù, come è lui, lo trova sempre un posto. Va bene, allora abbiamo detto per bene cosa va sopra l'albero. Diciamo invece cosa va sotto l'albero, che mi sembra anche altrettanto importante. Sotto l'albero ci vanno i regali. E allora io stasera ho qua i ragazzi della Corale Saint Boniface, che è praticamente la corale che canta appunto alla chiesa di Saint Boniface a Bruxelles. Ricordiamo il sito è www.coralesanboniface.wordpress.com. Corale Saint Boniface è scritto Corale ST Boniface. lo diciamo per tutti. Giusto. Noi italici che abbiamo queste pronunce un po' così. La Corale Saint Boniface, quindi, è la corale della comunità italiana di XL qua a Bruxelles. E per Natale ci ha preparato un bellissimo regalo. Rossella, di cosa si tratta? Ce lo dici tu? È una sorpresa che arriverà tra circa una settimana. È un CD. Possiamo dirlo. Si può dire. Discovery. Allora, l'avevo già detto, infatti. È un CD con 8 canzoni. 6 sono cantate appunto dalla corale di San Boniface. Ed è stata un'esperienza bellissima perché ci siamo incontrati per 4 fine settimana e abbiamo cantato, ci siamo ritrovati tutti insieme per offrire questo bel CD con tutto il nostro amore, la nostra passione, le nostre voci calde per voi, per tutti gli italiani di Bruxelles. Quindi, Rossella, mi pare di capire che questo è il primo disco della Corale Saint Boniface, il primo lavoro che fate. È il primo, ma non l'ultimo. Eccola là. E allora, noi adesso, visto che abbiamo parlato del disco, vi cominciamo a fare ad assaggiare qualcosa di questo magnifico CD che io ho ascoltato in anteprima. E quindi adesso lanciamo il Cantico della Conversione, cantata da Giovanni Capobianco, con arrangiamento di Angelo Gregorio. I colori dell'anima, siamo qui sempre in diretta da Radio Alma sulle frequenze 101.9 FM qua a Bruxelles, o per chi ci ascolta in diretta streaming sul sito www.radioalma.eu. Io sono sempre Giampaolo, in regia con me c'è sempre Angelo Gregorio. Ciao a you! Ciao! E qui con me, per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, ci sono i membri della Corale Saint Boniface, che ciao. È questo magnifico gruppo. Ciao. Eccoli qua, li sentite, di pazzi scatenati, folli, che sono venuti qua stasera a farci ascoltare il loro regalo di Natale, la loro sorpresa di Natale. Che cos'è? È questo disco che loro hanno registrato insieme ad un'altra corale, che è la Corale di Sant'Hélène, la chiesa di Sant'Hélène nel quartiere di Saint-Gilles a Bruxelles, che salutiamo Cristina, che è la responsabile della corale, e tutti gli altri membri, nonché animatrice. No, anche no. Del nonché carissima, sempre la palla in bocca Babbo Natale qua. Esatto, ragazzi, non si può, no? Comunque, dicevamo, salutiamo Cristina, che è una delle coordinatrici di Radio Cristina! Bravissimi, sono veramente incontenibili. E Cristina, voi l'avete ascoltata insieme a noi nella scorsa puntata, una settimana fa, ricordate quando c'eravamo qua tutti i conduttori di Radio Alma, tutto questo ambaradam. Ma ritorniamo un attimino al nostro tema. Abbiamo sentito questa bellissima canzone interpretata da Giovanni Capobianco, e con l'arrangiamento di Angelo Gregorio. E questo lavoro della Corale Saint Boniface è stato un lavoro che, come ci diceva Rossella, è durato un mese all'incirca. No? Dicevi, sì, Rossella? Sì, sono state 3 fine settimana di seguito, quindi sì, quasi un mese. Più. È stata dura? Beh, è stata dura, ma le cose più belle sono sempre quelle che richiedono impegno e tempo. E quindi sì, no, ma è stata una bellissima esperienza. Ecco, sì, il CD è stato fatto in un mese, ma c'è da dire che c'è stata una lunga preparazione prima del CD. E quindi c'è tanto lavoro dietro. Esatto. Anche attorno, non solo quei momenti di prova. Grazie ad Angelo, che ha arrangiato anche le canzoni, ci ha preparato, ci ha supportato, ci ha aiutato nei momenti più difficili. È stato bellissimo perché ci ha unito un sacco questa esperienza. Non è stato soltanto quello che abbiamo prodotto, ma anche come l'abbiamo preparato. Che bello sentirtelo dire. E niente, quindi allora, cioè, diciamolo, questo disco di Natale è un regalo che la Corale Saint Boniface ci fa, e noi rivolgiamo un invito a tutti quelli che ci stanno ascoltando di considerare il disco della Corale Saint Boniface come regalo di Natale. Beh, perché no? Sì, perché no? Infatti abbiamo una chiamata, abbiamo una telefonata, quello che si sentiva è una chiamata. Vediamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Pronto, ci sei? Ciao a tutti, sono Antonella e chiamo dalla Sicilia. Ecco, ciao Antonella. Ciao a tutti. Chiami dalla Sicilia? Da dove? Da dove chiami in Sicilia? Precisamente da Palermo. Da Palermo. Da Palermo! Alla capitale, la capitale. Ce la mettete sta palla in bocca, questa? Fermate Babbo Natale, ragazzi. Fermate Babbo Natale. Antonella, cosa fai di bello a Palermo? In questo momento niente, ascolto Radio Alma. Eccola là, prendete tutti esempio. Allora, ti stai passando la serata alla grande. Bellissima, la serata meravigliosa. Vivo in attesa del lunedì di Radio Alma. Allora, senti, Antonella, prendo io okay, parola perché... Io confesso, mi hanno pagato. Bene, bene, non lo diciamo, no, no, no, non abbiamo sentito, Antonella, che ti hanno pagato. Senti, no, allora, tu che cosa hai fatto, l'albero o il presepe, o entrambe? Io ho fatto un presepe piccolissimissimo, che in realtà ho già comprato ad una festa di beneficenza, e l'ho appeso perché va appeso in alto alla scala. Ed è una bozza trasparente di vetro con dentro il presepe. Ma quindi è una palla col presepe dentro, attenzione. Cioè, aspetta, non è che la... Una aspetta, palla col presepe dentro. Aspetta, Antonella, cioè, tu manco... Tu non sei IKEA friendly, tu hai fatto la cosa proprio... L'hai presa già fatta. Cioè, non, nemmeno a mettere i mocciarielli, nemmeno a mettere le statuine uno vicino all'altro. No, la palla, già bella è fatta. Però lei è proprio sfaticata. Argentato alla palla e l'ho appeso alla scala. Belli, cioè ragazzi, facciamo tutti così da ogni parte. È vero, l'impegno c'è stato, è vero. Senti Antonella, che cosa farai questo Natale? Vabbè, soprattutto famiglia. E poi cioè farai famiglia in che senso? Metti su famiglia, ti sposi? No, lo passerò in famiglia. Penso che lo passerò più mangiando che altro. Ale, già buona siciliana, bravo. Non siamo attaccati al cibo. No, assolutamente no. E senti, allora, in breve, dici magari la cena di Natale, com'è dall'antipasto fino alla fine? Lo so che ci vuole mezz'ora, però tu riassumi. Vabbè, anziché l'antipasto andiamo al pezzo forte. Porchetta di 1,5 metri come centrotavola. Con bellissimo. Mele in bocca. Insieme ai fiori. Con mele in bocca o con palla di Natale? Con palle di Natale. È la stella che passa sopra la povera porchetta. E poi? Di tutto, ragazzi, di tutto. No, di tutto veramente. Benissimo. Antonella, senti, vorresti salutare qualcuno prima che ci lasciamo? Dai che è il tuo momento, Antonella. Saluta tutti. Allora, intanto tutti voi. In particolare Giampaolo, Angelo e Carla, perché sono quelli che conosco di più. E poi... Affezionata. È una ascoltatrice affezionata. E state zitto, falla parlare. Vai, Antonella. Saluto Maria Domenica Alfieri, che sta ascoltando, Francesco Mastrandrea, che è il mio fidanzato, mamma, papà, cugini, parenti, amici, tutti. Quelli che mi conoscono. Benissimo, e noi salutiamo te, Antonella. Grazie mille di averci chiamato, grazie mille. Un bacione qui da Bruxelles. Ciao, Antonella, grazie mille. Speriamo di vederci presto. Ciao, Antonella, buona serata. Ritorniamo in studio. Ciao. Ritorniamo in studio dove c'ho un Babbo Natale sempre più scatenato. Senti Leandro, ma come, cioè, quanti alberi di Natale fai? Perché tu sei così pieno di energie, così incontenibile, non ci crediamo che hai fatto solo l'albero in ufficio. No, ma io la realtà è che a me non mi hanno aspettato, a casa l'hanno già fatto. E lui trova tutto e quindi pronto, tu te lo sei fatto qua in ufficio. Esatto, per rifarti. Ma bellissimo ragazzi. Intanto vedo che su Facebook continua ad arrivare di tutto, Angelo, veramente una cosa strabiliante. Vedo gente, palle cadenti da tutte le parti, non so, più che altro c'è gente che si lamenta che è bello fare l'albero di Natale, però poi vorrebbe chi lo disfa dopo le feste, sì, di Natale. Sì, quello è brutto, è vero. Guardate, leggo di tutto, guarda questo addirittura dice no, io lo lascio così pronto, così lo trovo l'anno successivo. È una bella idea, confessa, qualcuno di voi lo ha mai fatto? Gabriele, sì. Ti è mai capitato di lasciare l'albero di Natale con tutte le palle su? In effetti non l'ho mai fatto, però mi ha dato una buona idea. Penso che prossimo anno farò la stessa cosa. E adesso, Michelangelo, cosa... Cioè, confessa, hai mai lasciato l'albero di Natale? Mai. No, ma Michelangelo è troppo preciso. Io quest'anno ho costruito il presepe per i bambini, l'abbiamo fatto di legno. È la prima bozza, poi adesso lo dobbiamo un po'. Gli da fuoco di legno. Lo dobbiamo ancora un po' fare un po' di finizione, ma quest'anno già almeno ci abbiamo qualcosa. Va bene, ragazzi, io tra tutti questi presepi, pastorelli, palle di Natale, stelle, spuntoni e quant'altro, vi lascerei in compagnia ancora una volta della Corale San Bonifacio. Vi faccio ascoltare un altro bellissimo pezzo tratto dal loro primo disco, e il pezzo si intitola Servo per amore. E rieccoci, quella che abbiamo ascoltato era Servo per amore, interpretata dalla corale San Boniface di XL, della comunità italiana di XL, e il sassofono era Angelo Gregorio, che ha curato anche gli arrangiamenti di questo pezzo. Abbiamo qualcuno in linea? Attenzione, telefonata. Allora io c'ho il mio aiuto regia qui, Leana, vai Leana, alza. Pronto. Buonasera, ma riconosco questa voce. Buonasera, mannaggia, non posso ricordare stasera il numero di telefono. Eccola là, la nostra magnifica Carla, condottiera di questa barca. Ciao Carla. Allora, se volete contattare Radio Alma allo 02 345 2656, o la pagina Facebook Anne Carla Fair. Questa telefonata mi sa che la tagliamo. Grande Carla. Ciao Carla. Allora, come va? Alla grande! Abbiamo un Babbo Natale incontenibile, come puoi sentire. Bene. Vi sento, vi vedo numerosi. Sì, siamo tantissimi questa sera. Ci manchi tanto. Senti, stasera Angelo ha mangiato fagioli? Beh. Non lo sappiamo, in un'altra stanza. Per fortuna. Guarda qua, perché sei con lui in regia. Leana forse ci può dire qualcosa. La vedo sorridente però. Leana, rispondi a Carla. Dille che tutto va bene. Tutto va benissimo. L'ho convinta, la sto picchiando invece. Anche lei è stata pagata. Senti Carla, ma ho sentito che sei in compagnia. In compagnia di chi? Sapessi, aspetta che ti passo qualcuno. Rullo di tamburi. Ciao ragazzi. Chi è? Ciao, chiami? Chi sei? Da dove ci chiami? Siamo da Bruxelles, di fianco a Carla. Ma chi sei? Capitaine Crespel. Non lo dire, che poi vengono tutti a casa tua. Senti, poi finisce come il telefono di Angelo. Mi sa che tu sei Chiara, giusto? Sì, indovinato. Ciao Chiara. Ciao Chiara. E voi avete fatto l'albero, il presepe? Domanda di riserva. Avanzi. Allora, pazienti. Cosa Carla? Ma io l'ho fatto con i pazienti oggi. Ma Carla, l'albero o il presepe? Non abbiamo capito. Allora l'albero e il presepe. Allora in realtà il presepe era già fatto, l'ho tolto da una scatola, però l'albero l'abbiamo proprio fatto insieme. E Chiara stava per rispondere. Chiara! No, non ho fatto il presepe e c'è qualche decorazione natalizia, ma poche. Ok. Ha scelto la strada alternativa. Lei sfaticata come l'ascoltatrice di prima. Però siete bellissimi in studio. Complimenti a Leana che... Ma grazie. Sentite ragazzi, volete fare un saluto particolare? Volete inviare un messaggio? Prima che diamo la linea in studio e lanciamo un altro brano della corale e andiamo verso la chiusura? Sì, io vorrei dire a tutti di augurarsi copiosamente Buon Natale anche con persone con le quali magari non c'è tanta confidenza, perché penso che faccia piacere ricevere un Buon Natale, auguri, buon anno, magari con persone con la faccia triste, e chissà che non ti regali un Buon Natale. Ma che bello. Dai Carla, grazie mille per la telefonata. Ciao Chiara. Ciao Matteo. Ciao. Buon Natale. Ciao. E noi piano piano ritorniamo in studio con Giampaolo. E rieccoci qua. Siamo di nuovo in studio con questi mitici componenti della corale San Boniface e con il nostro mitico Babbo Natale. Babbo Natale, vuoi fare dei saluti, perché ci stiamo avviando verso la conclusione? A tutti voi, Buon Natale! Ecco, ma questo è un Babbo Natale isterico. Allora, ragazzi, mandiamo un altro brano della corale prima di chiudere, e poi ritorniamo in studio. Ritorniamo in studio. Anzi, no. Continuiamo ancora qui un 30 secondi. E continuiamo allora, in attesa del brano. Ragazzi, che dire? Beh, puntata bellissima, siete stati veramente divertenti. Visto che ci avviciniamo verso il Natale, qual è un vostro desiderio, Gabriele, Rossella, Michelangelo? Quale sarebbe un vostro desiderio per questo Natale o un proposito per l'anno nuovo? Avrete dei propositi e tutti ce li hanno? O farò il buono, farò il bravo, metterò una palla in più sull'albero? Sì? Beh, ecco, no, la salute, prima di tutto la salute, è un altro CD per la nostra corale. Ed eccolo là. Allora, ragazzi, anche qualcosa di nuovo, invece di un altro CD, un'altra idea, qualcosa di totalmente diverso. Le idee navigano. Bene, ok, grazie mille a tutti di essere venuti, vi ringraziamo e chiudiamo purtroppo i microfoni in studio ai nostri ospiti, lasciamo solo Giampaolo che ci ricorda che saremo qui il 7 gennaio 2013 dell'anno nuovo, anno nuovo, vita nuova, ma i colori dell'anima con Angelo, Giampaolo e Carla resteranno sempre qui. 7 gennaio, ragazzi, mettetevelo sull'agenda. Giampaolo, vuoi fare gli auguri a qualcuno? Assolutamente, auguri a tutti, 2 secondi, 3 secondi. Vi ricordo velocemente che il CD della Corale San Bonifas si può trovare a partire da domenica prossima presso la chiesa di San Bonifas, oppure potete scriverci tutti quanti alla nostra pagina Facebook Angelo e Carla.